Letture di Radio 24. Qualche settimana fa a Napoli è stato organizzato un ciclo di lezioni sulle arti figurative, per il quale si prevedeva la presenza di 150 partecipanti. Alla prima lezione, dedicata alla nascita della storia dell'arte, si sono presentati in 600. Partendo da questa inaspettata dimostrazione di interesse, Salvatore Settis cerca di spiegare in un articolo pubblicato oggi sul domenicale del Sole 24 Ore com'è nata la storia dell'arte e qual è il suo significato. Fare storia dell'arte non è ovvio. Tutte le civiltà umane conosciute hanno prodotto arte. Pochissime hanno prodotto anche una narrazione di eventi dell'arte. Perciò ha senso la domanda: come nacque la storia dell'arte? Nella tradizione occidentale, la storia dell'arte è solo una parte della letteratura artistica. Rientra in un ambito assai più vasto, che include, per esempio, i trattati sulla tecnica, i colori o l'iconografia, gli scritti di topografia artistica, la tradizione descrittiva delle opere in poesia e in prosa, la produzione di immagini, incluse quelle che possono essere intese come opere d'arte e che spesso ebbero funzioni miste, per esempio magiche, religiose, estetiche, politiche, è propria di tutte le culture umane conosciute fin dalla preistoria. Poche civiltà, tuttavia, hanno sviluppato una qualche forma di storia dell'arte, e cioè uno specifico genere letterario che disponga in narrazione sequenziale le vite degli artisti, le loro opere, il contesto entro cui essi operarono e il giudizio sul loro valore. Già nel Medioevo vennero occasionalmente citate notizie sulle arti tratte da Plinio. Una conoscenza diretta o indiretta delle categorie e maniere espositive di Plinio è il presupposto necessario di ogni altro scritto del 4 e 500 italiano, mentre i commentari del Ghiberti, rimasti in manoscritti, furono tuttavia accessibili a vari lettori, tra cui spicca il Vasari, accrescendo la conoscenza e l'autorità del testo di Plinio. Fra 4 e 500, abbozzi storici, raccolte di informazioni, elenchi di artisti e di opere, si vanno facendo dappertutto, sempre con forte marca locale. Un posto a parte occupano le originali proposte teoriche e gli usi linguistici di Leon Battista Alberti, che nel De Re Edificatoria gareggia con Vitruvio, mentre nel De Pictura e nel De Statua, pur non offrendo un profilo storico dell'arte, ne presuppone un'ossatura di stampo pliniano. Questi ed altri esperimenti confluirono nel testo cardine di Giorgio Vasari, Le Vite. L'immediata e ininterrotta fortuna di questa opera, unita alla folla di precedenti che se ne possono indicare, indicano quanto essa rispondesse alle attese di un pubblico colto. Su questo modello italiano di storia dell'arte in senso evolutivo e biografico sono esemplati scritti del resto d'Europa. Una narrazione che assorbisse le biografie individuali entro la vasta cornice di uno sviluppo artistico unitario si ebbe solo in Germania, con la Geschichte der Kunst di Winckelmann. Di essa è notevolissimo l'impianto storico e teorico, ma forse ancor più il fatto che, pur limitandosi alla storia dell'arte antica, egizi, greci, romani, etruschi, essa segnò di fatto la nascita di una nuova storia dell'arte, antica ma non solo, nutrita d'erudizione antiquaria, ma ispirata da intenti etici e pedagogici che trovarono vasta risonanza in tutta Europa. E infatti il vasto affresco organizzato per scuole della storia pittorica della Italia di Luigi Lanzi molto deve all'incrocio fra Vasari e Winckelmann. Da qui sono partite le linee evolutive che arrivano fino ad oggi. Questo lungo processo ha comportato il progressivo dipanarsi e fissarsi di un discorso storico-artistico che, pur fra mille varianti per tempo, luogo e individualità autoriale, è caratterizzato dalla ricorrenza di cinque principali linee portanti. 1. L'idea di uno sviluppo storico o progresso dell'arte che talvolta si accompagna a quella simmetrica del suo fatale declino. 2. La suddivisione degli artisti per scuole regionali. 3. La distinzione e la definizione di personalità artistiche individuali con le pratiche connesse. In primo luogo la biografia, la discendenza di bottega e l'attribuzione. 4. Il giudizio d'arte o di qualità coi relativi linguaggi. E infine la descrizione di opere d'arte, dalla quale solo in età assai recente si è sviluppata la ricerca iconografica. domandiamoci, per finire, a che cosa serva la storia dell'arte? La risposta è semplice. Come tutte le scienze, e in particolare le scienze storiche, serve per capire. Serve per capire un mondo come il nostro, inondato da immagini, senza subirle passivamente, sapendone smontare e ricostruire i meccanismi di persuasione. Perché se rinunciamo a capire, faremo come i ciechi della parabola illustrata da Bruegel in un bellissimo quadro a Capodimonte. Quando un cieco guida l'altro, tutti cadono nella fossa. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Salvatore Settis, storico dell'arte, pubblicato sull'Inserto Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Mentre 200.000 esodati esclusi dal lavoro e dalla pensione attendono di conoscere il loro destino, c'è chi rientra nel lavoro prima ancora di esserne uscito. Come l'ex ministro Giovanna Melandri che, pochi giorni dopo aver annunciato di non volersi ricandidare per le prossime elezioni, vista la quasi ventennale presenza in Parlamento, ha ricevuto dal ministro Ornaghi il prestigioso incarico di presidente della Fondazione Maxi, il Museo di Arte Contemporanea di Roma. Ma oggi che si parla di rinnovamento della classe politica, scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, non è opportuno nominare ad una carica pubblica un parlamentare che ha appena smesso di esserlo. Giovanna Melandri è di sicuro una persona di ottimi studi, di buona cultura generale e, cosa che non guasta, parla per giunta un inglese fluente. È stata poi un non immeritevole ministro dei beni culturali e, dopo una ventina d'anni di presenza in Parlamento, ha annunciato pochi giorni fa di non volersi ripresentare alle prossime elezioni. Ma basta tutto questo per farne il presidente di una fondazione che presiede l'attività di un museo di arte contemporanea? Lo dirò senza mezzi termini. Mi sembra una decisione sbagliata per almeno due ragioni generali che vanno ben oltre il caso e la persona specifica. Innanzitutto si dà il caso che l'onorevole Melandri sia un deputato del Partito Democratico. Ora, mi chiedo se rientri nell'immagine appropriata di un ministro tecnico, come il ministro Ornaghi, nominare ad un posto di natura pubblica una persona che, ripeto, è persona senz'altro degnissima, ma priva di qualsiasi competenza specifica per quel posto, ha invece un così marcato ed assorbente connotato politico-partitico. Un ministro tecnico, infatti, non dovrebbe dar adito, neppure nella maniera più indiretta, al sospetto che nella sua azione cerchi un qualsiasi modo di precostituirsi dei meriti verso una parte politica o l'altra. Sono sicuro, sicurissimo, che il ministro Ornaghi non ha di certo mai avuto un'intenzione simile, ma vi sono degli atti i quali, a dispetto di ogni volontà del loro autore, possono essere interpretati male. E allora, perché non evitarli? Vi è poi un secondo e più importante motivo che rende sconsigliabile la nomina di cui sto parlando. Da sempre è una pessima abitudine italiana che moltissimi importanti posti di vertice, presidenze e consigli d'amministrazione di tutta una serie di istituzioni pubbliche e parapubbliche, fondazioni bancarie, istituti culturali, enti espositivi e teatrali, municipalizzate, industrie a partecipazione statale, enti più diversi, eccetera, siano riservati a ex esponenti politici ed assimilati, quasi sempre in spregio ad ogni criterio di competenza. È accaduto così che presidenti del Consiglio dei Ministri, ministri, presidenti e giudici della Corte Costituzionale, deputati, senatori, presidenti di regione, sindaci, consiglieri regionali, non appena lasciato per una ragione o per l'altra il proprio incarico, siano andati ad affollare in massa i vertici della vita pubblica, economica e non del paese, costituendo, rispetto ai politici di partito presenti negli organi elettivi, una sorta di vera e propria supercasta, di fatto egualmente se non più potente dell'altra, e ancora più duratura e inamovibile. Grazie, tra l'altro, al passaggio frequente e disinvolto dall'uno all'altro posto, anche del genere più diverso. Oggi che si parla tanto, e tutti sembrano essere d'accordo, di un rinnovamento della classe politica e di un ridimensionamento del suo strapotere, non sembra davvero la scelta più opportuna nominare ad una qualunque presidenza un parlamentare non appena esso cessa di essere tale. Se un deputato o un senatore o un ministro abbandona il proprio incarico, ciò sia per davvero, non già per diventare più o meno immediatamente il candidato a ricoprirne un altro da qualche altra parte. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, Il Museo delle Cere e gli Esodati di Lusso, dal Corriere della Sera del 19 ottobre.